24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano la convocazione dell'Eurogruppo straordinario, chiamato a varare il piano di aiuti per la Spagna e a lanciare lo scudo antispread. Vi aggiorneremo sugli ultimi sviluppi della crisi nei paesi più esposti, Portogallo, Spagna, Cipro e Grecia, e vi racconteremo come gli Stati Uniti vedono la crisi europea. Colpo di scena nella commissione intergovernativa italo-francese sulla TAVA, si dimette il presidente Rainer Masera. Microsoft si scusa con Bruxelles per inadempimento, mentre oggi vi raccontiamo un'idea nata in Germania: incentivi statali per chi fa vacanze nell'Europa del Sud per aiutare i paesi in difficoltà economica. Ed è dunque ufficiale, venerdì si svolgerà una riunione straordinaria dei ministri delle finanze dell'Eurogruppo in teleconferenza per dare il via libera al piano di aiuti alla Spagna sulla ricapitalizzazione delle banche. A confermarlo il portavoce della vicepresidente della Commissione europea Olli Rehn, responsabile degli affari economici dell'euro, nell'incontro di metà giornata con la stampa a Bruxelles. La rapidità della ripresa in Italia dipenderà dalla coesione dimostrata dall'Unione europea e dalla normalizzazione dei mercati finanziari, lo afferma la Banca d'Italia nel suo bollettino economico, secondo cui l'incertezza su questo quadro è elevata e saranno cruciali le modalità dell'attuazione del vertice europeo di fine giugno. L'Europa ha le risorse per risolvere la crisi, così il presidente della Fed Ben Bernanke di fronte alla commissione bancaria del Senato statunitense. Per Bernanke i mercati finanziari e l'economia europea restano sotto significativo stress, l'incertezza economica sta aumentando. Il programma di risanamento del Portogallo è sulla buona strada, così il portavoce del commissario Olli Rehn, riassumendo il senso del rapporto della Troika sul paese, con cui viene dato il via libera all'esborso di una nuova tranche di aiuti da 4 miliardi. Per gli ispettori di BCE, Commissione Europea ed FMI, Lisbona ha mostrato un'attività economica più resistente del previsto e gli obiettivi di bilancio appaiono raggiungibili, anche se su questo fronte i rischi aumentano. Le misure adottate dalla Spagna la scorsa settimana vanno nella giusta direzione, questo è il risultato dell'analisi preliminare dei servizi economici della Commissione europea. E la Troica Europa BCE FMI si recherà in missione a Cipro e in Grecia nei prossimi giorni. Ad Atene arriverà il 24 luglio, mentre per Nicosia non è ancora stata fissata una data, ma sarà a breve. Le tre istituzioni devono fare il punto sulla situazione di Cipro per preparare il memorandum d'intesa in vista del programma di assistenza finanziaria completa di cui Nicosia ha fatto richiesta. Ad Atene invece la Troica deve valutare di quanto il paese si sia discostato dal rispetto degli impegni presi con il secondo programma di aiuti. Dopo 8 mesi di tira e molla tra l'Ungheria e la Troika internazionale hanno preso il via le trattative per una linea di credito di circa 15 miliardi di euro per Budapest. Una missione del Fondo Monetario Internazionale, dell'Unione Europea e della BCE è nella capitale ungherese, dove ha incontrato il negoziatore locale Mihály Varga. Varga ha dichiarato alla TV pubblica M1 di aspettarsi trattative difficili e un accordo non prima di ottobre. Il trattato di bilancio europeo potrebbe essere sottoposto al voto di ratifica del Parlamento francese a fine settembre, a dichiararlo il premier Jean-Marc Ayrault, parlando al gruppo socialista all'Assemblea nazionale. Ayrault ha spiegato che deputati e senatori potrebbero essere chiamati a pronunciarsi sul Fiscal Compact, l'accordo sulla disciplina di bilancio, in una sessione straordinaria del Parlamento, qualche giorno prima dell'inizio dell'anno parlamentare previsto il 1 ottobre. Le parole di Ayrault sono state riportate da alcuni deputati socialisti. Ora i mercati, le borse europee chiudono deboli, una giornata vissuta all'insegna dei rialzi, penalizzate dalle dichiarazioni del presidente della Fed Bernanke. Il governatore della Banca Centrale Americana non ha fornito alcuna indicazione sulle prossime mosse per stimolare l'economia, deludendo i mercati. Milano ha registrato la performance peggiore penalizzata dalle banche, mentre la migliore è stata Madrid, che ha beneficiato del buon esito dell'asta spagnola. Milano ha chiuso in calo dello 0,94%, una giornata vissuta all'insegna dei rialzi e penalizzata sul finale dalle dichiarazioni del presidente della Fed Ben Bernanke. Il governatore della Banca Centrale Americana non ha fornito alcuna indicazione sulle prossime mosse della Fed per stimolare l'economia, deludendo così i mercati. Piazza Affari ha registrato la performance peggiore in Europa penalizzata dalle banche, mentre la migliore è stata Madrid, che ha beneficiato del buon esito dell'asta spagnola. Sul FTSE MIB hanno chiuso in forte calo BPM -4%, Intesa San Paolo -3%, male anche in Pregilo -2,4%, su cui si è sgonfiato l'appeal speculativo dopo la vittoria in assemblea del socio Salini, che si è aggiudicato la nomina del nuovo consiglio. Per contro hanno chiuso in forte rialzo l'Ottomatica più 3% e Ansaldo più 1,6%, quest'ultima in attesa di conti e di nuove commesse. Nel resto del listino andamento ancora estremamente volatile per Fonsai e Unipol nel secondo giorno dell'aumento di capitale. Le azioni ordinarie Fonsai sono balzate del 90% con i diritti a meno 64%, mentre Unipol ha perso il 13,4% circa con i diritti a meno 59%. Livia Zancaner da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore. Rainer Masera si è dimesso da presidente della commissione intergovernativa italo-francese sulla TAV Torino-Lione. La Commissione europea ha ricevuto la lettera con le risposte del premier rumeno Victor Ponta alle questioni sollevate da Bruxelles sul rispetto dell'indipendenza della magistratura e delle decisioni della Corte Costituzionale. Lo ha annunciato un portavoce dell'esecutivo comunitario, precisando che il caso Romania sarà sul tavolo della Commissione in occasione della riunione settimanale. Ponta, ha detto il portavoce, ha fornito risposte e spiegazioni dettagliate rispetto agli 11 punti critici evidenziati dalla Commissione europea. Microsoft si scusa per aver mancato le sue responsabilità a causa di un errore tecnico e quanto scritto in un comunicato emesso dalla casa di Redmond dopo l'annuncio da parte del commissario europeo alla concorrenza Joachim Almunia dell'apertura di un'inchiesta e la minaccia di una multa miliardaria. Gli attacchi in Siria contro i civili, inclusi gli operatori umanitari, sono totalmente inumani e illegali, devono cessare. Questo il nuovo appello del commissario europeo agli aiuti umanitari Kristalina Georgieva in merito alla crisi siriana. Gli aiuti alimentari stanno raggiungendo, ha detto la Georgieva, 850.000 persone al mese, ma questo passo avanti ha un valore minimo di fronte alla costante crescita della violenza. Secondo la commissaria europea, attualmente sono fra 1,5 milioni e 2,5 milioni le persone che necessitano di assistenza, inclusi oltre 100.000 rifugiati nei paesi vicini, con una media tra i 700 e i 1.000 siriani che fuggono dal paese ogni giorno. Nono calo consecutivo a giugno per il mercato dell'auto in Europa. Secondo quanto comunicato dalla CEA, il mese scorso c'è stata una nuova flessione pari all'1,7%. Nel primo semestre 2012 le immatricolazioni hanno ceduto il 6,3% rispetto allo stesso periodo del 2011. In Europa sarà più facile per i pazienti beneficiare delle terapie più innovative grazie a una ricerca clinica più attrattiva in materia di sperimentazione di farmaci sull'uomo, ma anche a procedure di autorizzazione semplificate, pur mantenendo gli standard più elevati per la sicurezza. È il quadro che si prefigge di realizzare la Commissione europea proponendo di aggiornare la direttiva comunitaria del 2001 sulla sperimentazione clinica. Depressi dalla pioggia e da temperature praticamente autunnali, i tedeschi tirano fuori una iniziativa di solidarietà inedita in format estivo: lanciare incentivi statali per chi fa le vacanze nell'Europa del Sud. La proposta, sostenuta da alcuni politici liberali, arriva dalle pagine della tabloid Bild Zeitung. Il tempo sta davvero deprimendo la gente, una specie di premio statale per spingere i tedeschi ad andare, per esempio, in Grecia per una breve vacanza sarebbe un programma congiunturale europeo, così l'europarlamentare liberale Yorgos Tsatsimarkakis. Chiudiamo con lo sport, il calcio, il Paris Saint-Germain a caccia di campioni dopo la firma di Zlatan Ibrahimovic, ma anche in Francia si attendono giorni di strette fiscali. L'unico che può fermare Zlatan Ibrahimovic a conti fatti è François Hollande. Sì, perché mentre Ibra abbandona il diavolo e sbarca nella Ville Lumière per intascarsi la bellezza di 14,5 milioni di euro l'anno da parte dei proprietari catarioti del Paris Saint-Germain, il Parlamento francese ha iniziato il dibattito sul pacchetto di misure fiscali destinate a colpire i ceti alti e che culminerà con il prelievo al 75% sugli stipendi oltre il milione. Una vera e propria misura anti-Ibra, ma che in buona parte potrebbe colpire tutta la rosa del Paris Saint-Germain che, per quanto riguarda il solo 11 titolare, ha un monte stipendi di 58 milioni di euro. Ma, salvo sorprese, la supertassa dovrebbe slittare al prossimo autunno e magari non colpire proprio i contratti di artisti, attori o sportivi. Stessa mano leggera da parte del fisco è stata promessa da Hollande per gli atleti transalpini che vinceranno medaglie olimpiche a Londra. Perché, per qualsiasi politico scaltro, una foto con Ibrahimovic campione d'Europa o con un oro olimpico, ecco, davvero quella non ha prezzo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Era questa l'ultima notizia, è tutto per il nostro appuntamento con 24 Ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.